po' in anticipo, ho lasciato la pubblicità per questo slot e iniziare la rubrica in mostra, in quanto il doppio contenuto oggi ci porterà all'approfondimento di due esposizioni che certo non sono vicinissime a Bologna, ma che hanno a che fare con la nostra città come importante motivo di collaborazione. La prima è dedicata a una fotografa, Marta Rocher, che conosceremo grazie alla voce di Raffaella Perna, co-curatrice insieme ad Elisa Genovesi per il Museo Laboratorio di Arte Contemporanea. Ha un'imminente apertura dal 16 gennaio e sarà fino al 18 febbraio. La mostra è nell'ambito del PRIN, che è un acronimo progetto di ricerca di interesse nazionale istituito nel 2020. La fotografia femminista in Italia, il MLAC, Museo Laboratorio d'Arte Contemporaneo, è lieto di presentare questo motivo in più e valore aggiunto per un panorama veramente esteso, ma del quale abbiamo poche notizie, e portare sotto i riflettori queste figure è sempre un motivo di conoscenza ulteriore come valore aggiunto. Ritratti d'artista è il titolo. È una mostra declinata al femminile anche come collaborazioni, partecipazioni. All'interno di questo progetto, la fotografia femminista italiana, progetto di ricerca condotto dall'Università di Bologna, principale investigator e responsabile unità di ricerca la professoressa Federica Muzzarelli, dall'Università di Parma e dalla Sapienza di Roma. E appunto, trovando questa unione di sforzi per dare un ritratto, un identikit, quando di notizie ufficialmente ve ne sono poche, di nascita viennese troverà spazio di approfondimento e di espressione artistica in Italia, ritratti d'artista in più. Quello che vi posso aggiungere, oltre che le parole di Raffaella Perna, che ne darà una presentazione e un'anticipazione decisamente più esaustiva, è che tra i nomi che possiamo trovare nei protagonisti ritratti da Marta Rocher, Alberto Giacometti, André Breton, Oscar Kakoschka e tante e tanti altri. Quindi non ci resta che iniziare il nostro viaggio e iniziare la nostra conversazione con Raffaella Perna, co-curatrice dell'esposizione romana. Siamo al Museo Laboratorio d'Arte Contemporanea di Roma. È imminente l'apertura, 16 gennaio fino al 18 febbraio 2024, per una esposizione di cui vorrei portare i contenuti anche a Bologna, a proposito di una protagonista che è Marta Rocher. Il titolo dell'esposizione è Ritratti d'artista. Siamo con la co-curatrice Raffaella Perna, che innanzitutto saluto. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno e grazie dell'invito. Beh, grazie a te e a voi, perché abbiamo la possibilità di aggiungere un identikit ulteriore, anche se tu mi hai detto che su questa artista si sa ben poco. Beh, possiamo iniziare così, delineando un pochettino una descrizione di Marta Rocher. Sì, come ti dicevo, in realtà di questa fotografa si sa veramente molto poco. È nata a Vienna, in realtà con un altro nome, il nome da nubile, Marta Liebmann, ed è morta a Milano nel 1990. Di lei sappiamo appunto che alla fine degli anni 50 si trasferisce a Parigi, dove inizia questa attività intensissima di come fotografa, sia della scena urbana parigina, sia nel campo della moda e del design, ma sia soprattutto a contatto con gli artisti della neo avanguardia francese, parigina dell'epoca. Inizia a fotografare artisti del nouveau realisme come il Klein, Jean Tinguely, e poi tutta una serie di artisti invece della prima avanguardia, surrealisti, André Breton, Meret Oppenheim, Sonia Delaunay, Giacometti. Insomma, inizia veramente a raccontare un mondo. Poi si trasferisce in Italia agli inizi degli anni 60 a Milano, e anche lì continua questa sua esplorazione del campo artistico. In particolare lavora a contatto con la Galleria del Cavallino, fotografa le Biennali di Venezia. Anche in Italia entra in contatto con l'avanguardia artistica più sperimentale. Ecco, questo diciamo un po' quello che siamo riusciti a ricostruire attraverso il suo fondo fotografico e ad alcuni documenti che abbiamo avuto grazie alla sua famiglia. Colonna sonora per Martha Roche, viennese, nasce nel 1920, scompare nel 1990 a Milano, ovviamente presa da Vienna nelle sonorità del contemporaneo, visto la collaborazione e il ritrarre gli artisti di un'avanguardia quanto mai importante, che ha aperto una strada veramente incisiva per Vienna Scientist, questi artisti che nell'elettronica hanno motivo di avvicinamento ai grandissimi Kruder Dorfmeister, che sono le colonne portanti per la musica elettronica e il downtempo. Questo progetto Vienna DC Dope Control, che stiamo ascoltando come stacco tra la prima parte di conversazione con la co-curatrice Raffaella Perna in collaborazione con Elisa Genovesi per Martha Rocher e il ritratto d'artista. Ho deciso di portare non solamente per l'attinenza con Vienna, ma anche per la capacità di Martha Rocher di essere importante nonostante sia rimasta per lungo tempo nell'ombra. Allo stesso modo, queste sonorità e queste note, come ho detto, di avvicinamento alla musica di Kruder Dorfmeister in un panorama di musica con la Klein, con la G-Stone, con la Echo Chambers, a Vienna veramente nell'elettronica c'è stato negli anni 2000 qualcosa di molto molto vasto e esteso, e quindi qualcuno magari non ha avuto modalità di visibilità allo stesso modo che i nomi più clamorosi. Quindi ho voluto dare questa colonna sonora dedicata a Martha Rocher, di importanza per le immagini che io ho visto nel ritrarre queste grandi figure dell'arte, nel trasformare ogni aspetto visivo, non dico in una performance, ma quasi, appunto. Mi darà conferma anche la co-curatrice, la dottoressa Raffaella Perna, e in tutto ciò io ho avuto modo di anticipare un po' le visioni di questi ritratti, e esattamente l'aspetto e la particolarità è di portare una performance all'interno dell'immagine stesso. Perché l'importanza di questa artista, oltre a queste originali caratteristiche, che vi ha portato a metterla in mostra? Beh, anzitutto la mostra rientra in un progetto più ampio, un progetto PRIN, quindi questi progetti di rilevante interesse nazionale che il Ministero finanzia per le università e che viene coordinata a livello nazionale dall'Università di Bologna, e a cui poi fanno capo due università che sono quella dove lavoro, l'Università La Sapienza e quella di Parma. Ed è un progetto che si intitola La fotografia femminista italiana, dedicato proprio alla scoperta, alla valorizzazione in chiave femminista del lavoro di fotografe italiane attive dall'inizio del secolo fino agli anni 80 del Novecento. Diciamo, stiamo facendo un lavoro di digitalizzazione che verrà reso pubblico nel 2025 e di studio, no, di figure anche a volte che sono rimaste ai margini. Abbiamo considerato Martha Rocher tra le fotografe italiane proprio perché l'attività prevalente, diciamo, l'ha fatta in Italia. E abbiamo pensato che la sua figura fosse interessante perché in quella fase si conoscono molto bene le fotografie di Mario Dondero, le fotografie di Duo Mulas, mentre il contributo delle donne, diciamo, alla rappresentazione, all'interpretazione anche dell'arte e degli artisti di quegli anni è sempre stata lasciata un po' ai margini, no? Conosciamo molto bene delle figure che si sono passate negli anni 60 e 70, ma non ad esempio figure di donne attive negli anni 50 in Italia, sono molto meno note, e quindi ci interessava questo sguardo di una fotografa in qualche modo che, anche essendo lasciata, insomma, avendo avuto un percorso sicuramente meno fortunato rispetto a quello dei colleghi, nello stesso tempo ha una qualità fotografica altissima. Cioè, quello che ci ha colpito molto è la qualità di questi ritratti, l'intensità psicologica di questi ritratti. Cioè, sono ritratti da cui si vede che lei aveva una familiarità estrema, una consuetudine, entrava negli studi, aveva un'amicizia con alcuni di questi artisti, e quindi c'è stata, diciamo, da parte sua la possibilità di restituire delle foto, ad esempio il clan vestito da judoka, delle foto che sono quasi, non dico delle azioni performative, ma quasi, e oltretutto ha anche documentato delle performance in quel momento, perché nel suo archivio rimangono testimonianza ad esempio di una performance di Meret Oppenheim o di Allan Kaprov, per cui, diciamo, è anche interessante il suo lavoro per guardare esperienze impermanenti, esperienze che nella fotografia hanno trovato una traccia documentaria importante. Quindi ci sembrava interessante all'interno di questo nostro percorso dare spazio a una figura come questa. He was a beautiful beast. She was so attracted. Not supposed to lie him, yet she was kind of infected. Giving each other kicks. Sometimes No game of despise, no lust in their eyes. A fading youth, a painful truth. Times are changing and people as well. Who wins in the end? No one can tell. Colonna sonora con The Game of the Spies, Sin. Grande lavoro nel down tempo tra il termine degli anni 90 e l'inizio del 2000, tanto più che questo movimento capeggiato da Kruder e Dorfmeister furono chiamati gli scienziati di Vienna, dei Vienna Scientists. Tra le collaborazioni, quando ho presentato il progetto condotto dall'Università di Bologna e non ho portato invece l'Università di Parma, lo cito in questo momento con la responsabile unità di ricerca, la professoressa Cristina Casero, oltre Bologna, Parma e Roma, per la sede museale che è il MLAC, Museo Laboratorio di Arte Contemporanea. È partita anche questa, non è la sigla del Last Minute, è contenuto in questa selezione dedicata a Vienna, dove non possono mancare i Kruder Dorfmeister nella versione di Tosca. Yeah, ce la teniamo, anche perché questo groove reiterato in down tempo, dub quanto mai piacevole, andando verso la conclusione. Beh, tra i ritratti, come ho detto, Merit Oppenheim, Alberto Giacometti, André Breton, Oscar Kokoschka, la mostra una selezione di cataloghi e materiali a stampa che documentano la circolazione pubblica di queste immagini e completano l'esposizione alcune fotografie di carattere privato. Avete sentito come la vicinanza di Marta Rocher a questi grandi nomi ha dato un carattere molto particolare, molto intenso e molto vicino a questi capostipiti dei movimenti d'avanguardia del Novecento. Non ci resta appunto che entrare in mostra e conoscere anche la quantità di opere. Un centinaio di fotografie selezionate tra oltre 1500 stampe. E poi ci sarà anche uno slideshow a partire dai negativi, quindi diciamo comunque più di 100 stampe d'epoca, insomma, realizzate tra la fine degli anni 50 e i primi 60, e poi una serie di slideshow, cioè uno slideshow relativo a, diciamo, a partire dalla digitalizzazione dei negativi. Ci saranno anche dei materiali documentari, diciamo, relativi ad alcuni cataloghi di mostre, diciamo, è stata invitata a partecipare, e, diciamo, di mostre di artisti che ha fotografato, e alcune fotografie anche di Parigi. Cioè, la mostra è dedicata soprattutto al rapporto con l'arte, però ci sarà anche qualche fotografia che documenta questo suo interesse per la città parigina. La suddivisione in sezione del percorso espositivo, come è stato organizzato? In realtà il museo laboratorio si dispone in un'unica grande sala con delle pareti molto lunghe di 30 metri circa, quindi, come dire, una sala rettangolare molto grande, quindi non ci sono delle divisioni interne di sale diverse. per cui è più a parete, e sicuramente seguiremo un approccio legato anche alla consonanza degli artisti tra di loro, cioè quindi andremo a suddividere l'ambiente francese da quello italiano, la Biennale del 62 che occupa un posto di onore all'interno della mostra, andremo più per aree artistiche che tra l'altro anche perché è uno spazio che è fluido in qualche modo, non ci sono delle divisioni interne. Sì, è tematica l'esposizione Ritratti d'artista Marta Rocher. Io ringrazio la co-curatrice Raffaella Perna, sarà al Museo Laboratorio d'Arte Contemporanea fino al 18 febbraio, l'apertura è il 16 gennaio. Grazie quindi e buona giornata. Grazie mille, grazie a voi. Delizia dub and down tempo, il brano infatti porta così il mix anche delle due parole dublicious, Freedom Satellite. Uno dei miei preferiti per quanto riguarda Vienna, che è Oskar Kakoschka, uno degli artisti che sarà motivo di scambio di ispirazione con i due grandissimi Schiele e Klimt, e con l'avvicinamento dell'espressionismo di Erbruck, il ponte, e vederlo appunto in ritratto da Marta Rocher, con oltre collaborazione artistica anche un'amicizia che ha dato una visione che ci fa sentire particolarmente vicina all'immagine di questi grandi dell'arte, come posso aggiungere André Breton, Alberto Giacometti, Mert Oppenheim, insomma un lavoro che ci porta a una passeggiata in mostra per conoscere una suddivisione tematica dell'artista Marta Rocher. A Roma aprirà il 16 gennaio fino al 18 febbraio al Museo Laboratorio di Arte Contemporanea, in un progetto condotto dall'Università di Bologna con la collaborazione dell'Università di Parma, le curatrici Elisa Genovesi e Raffaella Perna, che abbiamo sentito in approfondimento in questa prima parte della rubrica In Mostra. Tra pochissimo restiamo un pochettino in zona, anche se andremo indietro nel tempo con contenuti completamente diversi, però avremo a che fare con un'Austria degli Asburgo, per cui insomma restate sintonizzati per conoscere queste due esposizioni, ma con relazione di dialogo quanto mai completa tra Udine e Gorizia, tra pochissimo sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Le grandi mostre solo al Breakfast Club. A tra poco.